Eccoci con Gianni Farina, regista dello spettacolo Ascoltate, che sarà in scena all'Angelo Mai da venerdì 10 a domenica 12. Benvenuto a Radio Teatro su Onda Rossa, Gianni. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' cos'è Ascoltate. Allora, Ascoltate, senza altro aggiungere, è una serie di spettacoli e Ascoltate Cartoline a Roma è il primo episodio di questa serie che non poteva non partire da Roma, insomma dalla capitale. È una sorta di viaggio in Italia, ricorre il bicentenario dell'opera di Goethe, affrontato dal punto di vista dei turisti stranieri. Del resto anche Goethe lo era, insomma oggi il turismo è un'altra cosa, però questo progetto vuole ripercorrere un po' alcune mete turistiche italiane e raccontare in questo caso ai romani come la loro città viene percepita da questa categoria di persone che ormai per Roma, ma come anche Firenze, Venezia, Milano, sono quasi una categoria, possiamo dire, rappresentativa della città. Sappiamo che sono milioni, davvero milioni, i turisti che la popolano tutti i giorni. Sì. Senti, la curiosità, per esempio, è secondo te potrebbe essere adatto alla radiofonia? Perché me lo aveva segnalato, che se non sbaglio era stato a Teatri di Vetro, e me l'aveva segnalato Enea Tomei questo spettacolo, quindi la curiosità è proprio di una versione radiofonica. Beh sì, il titolo già dice molto su questo, nel senso è uno spettacolo, Ascoltate appunto, in cui il suono, le voci fanno un po', la fanno da padrona, e è un lavoro che parte proprio da un materiale audio, sì. Perché questi turisti che hanno prodotto, diciamo, il materiale drammaturgico, lo hanno fatto attraverso delle interviste, delle registrazioni audio, quindi, che noi abbiamo selezionato, tradotto, rimontato, e quindi tutto parte da interviste per la strada, di fronte ai monumenti, per le strade, nei locali di Roma, e sono i loro racconti, quindi proprio le loro parole che si sentiranno per queste parole. Ci sono un po' tutte le lingue del mondo, le principali perlomeno, formano una sorta di Babele inestricabile, tutte queste lingue diverse che si accavallano e sono, diciamo, in qualche modo si alternano oppure sono sovrastate dalla voce di Consuelo Battiston, che è l'unica attrice in scena, che, diciamo, ce le traduce in qualche modo, ce le riporta, ce le fa percepire in modo comprensibile. C'è anche un contributo video? No, non c'è un contributo video, c'è un contributo speciale. Ogni sera chiameremo un ospite romano, quindi non sarà in video ma sarà live. Sì. Per ogni sera ci sarà un ospite diverso e ci sarà una sorta di controcanto a queste voci dei turisti stranieri. Noi per 5 minuti daremo la parola a un romano che abbiamo ritenuto particolarmente interessante ascoltare il suo punto di vista, e ci dirà la sua sulla propria città e sui turisti. Ah, benissimo. Senti, allora, ci dai anche tutti i riferimenti web della compagnia? Certo, allora, la compagnia ha un sito che è -20.com, tutto in lettere. Sì. Gli spettacoli saranno venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 19 all'Angelo Mai, via delle Terme di Caracalla. C'è anche il sito dell'Angelo Mai come riferimento, che però non ricordo esattamente se .org.com.it. Si trova facilmente comunque. Senti, e poi altri progetti su cui state lavorando che ci puoi anticipare? E allora, io durante la scorsa estate ho fatto le interviste nella Riviera Romagnola. Okay. E quindi stiamo preparando la seconda tappa, debutterà a Bellaria Film Festival il 26 maggio, l'appuntamento l'Ascoltate 2, diciamo, che ha come sottotitolo Provvisorio Romagna Tua, E già dal materiale che stiamo traducendo e selezionando, già si prefigura un bel accostamento delle due tappe di questa serie, perché sono le risposte dei turisti, anche le domande ovviamente cambiano perché cambia il contesto, però anche la percezione del turista è completamente diversa. Quindi non ci sono solo questioni abbastanza prevedibili che comunque vale la pena ricordare. Ad esempio, mediamente a Roma i turisti sono incantati dalla bellezza della città, ma si lamentano dei servizi. Certo. In Romagna un po' il contrario, il mare è piuttosto è poco gradevole, ma il servizio è caloroso e accogliente insieme, per citare una risposta abbastanza comune. Quindi già si parte da posizioni diametralmente opposte, ma non voglio svelare troppe cose, bruciare delle sorprese, ma ci sono cose meno prevedibili da scoprire in entrambi i lavori, e sono mediamente opposti. Quindi già stiamo pensando che una volta raggiunto un certo numero di episodi, vorremmo poi cercare di farne una summa in un unico spettacolo finale che confronta le città che andiamo a toccare. Benissimo. Allora, ripetiamo l'appuntamento: da venerdì 10 a domenica 12 febbraio all'Angelo Mai. Ascoltate. Gianni, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille, buon lavoro. Ci vediamo, e buon ascolto a tutti. Ci vediamo a teatro, ciao. Sì, ciao.